con me. Canzone meravigliosa di Brusco, uscita un po' di anni fa, non ricordo di precisione l'anno, però canzoncina molto molto allegra. Ora attivo un attimo il teletrasporto perché vi devo dire una cosa molto importante, non tanto io ma questo bellissimo spot Onlus, uno spot no profit. Io mi catapulto immediatamente su questo pianeta e vi lascio in compagnia di questo spot molto molto interessante. Ci vediamo tra poco. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Breve intermezzo pubblicitario no profit, appunto dedicato all'Avis. In pratica è un'associazione di volontariato scritta all'apposito registro regionale, sto leggendo appunto le notizie del sito ufficiale avis.it, costituita tra coloro che donano volontariamente e gratuitamente appunto il sangue. E noi passeremo spesso questo sponsor. Pensate un pochino che l'Avis è stata fondata a Milano nel 1927 dal dottor Vittorio Formentano. Costituiscici ufficialmente come associazione dei volontari italiani del sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 con la legge dello Stato italiano. L'Avis è oggi un ente privato con personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. Fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato. Questo elemento centrale è strumento insostituibile di solidarietà umana. Gli scopi dell'associazione fissati dallo statuto erano e sono venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato della salute, donare gratuitamente il sangue a tutti senza alcuna discriminazione. All'Avis possono aderire gratuitamente sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur non potendo per motivi di idoneità fare donazioni, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di promozione dell'associazione. L'associazione Avis di Volontari del Sangue sono presenti su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata suddivisa in, pensate un po', 3.180 sedi comunali, 111 sedi provinciali, 22 sedi regionali e l'Avis nazionale, il cui organico principale è il Consiglio nazionale. Notizie reperite dal sito www.avis.it. Una cosa molto importante, sempre a proposito dell'Avis: se donate sangue non sentite assolutamente male, non sentite niente proprio, e fate un bel gesto, un gesto veramente importante, perché purtroppo gli ospedali italiani, come ben si sa, hanno sempre bisogno di sangue. Anche questo sabato, purtroppo, quante persone sulle strade, magari capiterà di fare incidenti. Io spero sempre di no, però purtroppo aprendo la televisione si sentono sempre incidenti così, e quindi la vostra donazione può essere veramente veramente un salvavita per tutti e anche per le persone che purtroppo sono affette da varie patologie. Ci vuole sempre, insomma, pensare positivo, però è giusto anche il mio modo, insomma, parlare di queste belle associazioni no profit. Ora la musica continua a Star Trek con un grande disco. Lui è Stelvio Cipriani, nascosto dietro lo pseudonimo di Anonymous veneziano con questo brano, bellissimo disco. Pensate un po' che questa canzone è la colonna sonora di un film di commedia sexy uscito negli anni 70, fine anni 70. Pellicola con, vediamo se mi ricordo, una pellicola del 79, che poi dopo il pezzo ne parleremo. Grandissimo Stelvio Cipriani, come ho scritto anche su Facebook, per me quando ha creato questo vinile in chiave disco music, il buon vecchio Stelvio si è divertito tantissimo. Canzone dal titolo, vediamo un po', perché è scritto in piccolo, purtroppo l'età avanza anche per il sottoscritto. To be the one you love. Non è proprio, comunque, perché purtroppo l'ho scritto molto in piccolo. Anonymous veneziano Stelvio Cipriani, colonna sonora del film La supplente va in città con Carmen Villani. La trama è questa: Rubina, appunto Carmen Villani, va a Roma per cercare il fidanzato che l'ha illusa e forse a farsi sposare, ma questi rifiuta e per vendetta lo denuncia per stupro. Dopo questa operazione diventa cameriera di una famiglia, poi commessa del loro negozio d'abbigliamento, dove conquista tutti e si sposa con il figlio del titolare. Insomma, sapete, con le commedie sexy che uscivano nel periodo degli anni 70, in particolare questo film del 1979 diretto da Vittorio De Sisti, colonna sonora appunto affidata al grande maestro Stelvio Cipriani, che non si è certo tirato indietro, magari non dico insomma di fare una pessima figura, però magari di prestare la sua preziosa collaborazione a una colonna sonora, comunque non dico di una pellicola scadente, però vabbè, è un pochino un film che diciamo è un remake del Febbre del sabato sera in versione italiana, però è carino, cioè, girato con poche risorse, poco budget, e se volete fare due o tre risate su YouTube lo trovate. La supplente va in città con Carmen Villani. Cercatelo su YouTube e vi divertite, insomma, anche a vedere un film per certi versi anche comico, con degli ottimi attori caratteristici. Olè, che base arriva. Se sei come me, c'è chi te... Basettina anche questa, estratta da una pellicola di film comici italiani. Sto parlando della saga di Pierino con Alvaro Vitali. Anche in questo caso, in questa saga, oltre all'attore principale Vitali, c'erano anche tantissimi altri bravissimi attori proprio caratteristiche negli anni 70, negli anni 80, spesso si vedevano nelle pellicole comiche. Certe volte mi sono domandato, ma come mai negli anni 70, negli anni 80 uscivano così tanti film comici? Questi poi venivano definiti anche film di serie B, no? Con attori certo bravi, però non ai livelli dei caporali tipo Tognazzi, Gassman, Sordi, Manfredi. Oggi non esiste proprio più la commedia, secondo me. La risposta che mi posso dare è che non siamo più capaci di ridere, purtroppo. La nostra bella Italia non è più come un tempo, non siamo più capaci di ridere. Vabbè, mi sono accorto adesso che sono in un ritardo mostruoso, purtroppo c'è l'ultima canzone che incombe. Io ringrazio tutti per essere rimasti in mia compagnia, veramente vi ringrazio tanto, tanto, tanto. Sì. Dalla via Tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Ringrazio anche te, ovviamente, grazie a Ugo per essere intervenuto con immenso piacere. Sì. E poi anche... Ciao, bella gioia! Ok, vabbè, dai, ok. Grazie anche a Renatone, al Gandhi, con questo suo, diciamo così, sketch meraviglioso del film La patata bollente del 1979. Col fischio senza! Eccoci qua, col fischio senza, purtroppo siamo arrivati al termine. Vi lancio l'ultima canzone, che è stupenda, veramente meravigliosa. Io vi ringrazio ancora una volta per essere rimasti in mia compagnia con Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Ci ritroviamo, come dico spesso, Dio piacendo, magari nelle prossime giornate. Saluto anche chi ci ha ascoltato in podcast. Buona serata a tutti da parte di Andrea, buon pomeriggio chi ci ascolta di giorno, eccetera eccetera eccetera. www.andreamangiarotti.com per maggiori informazioni. L'ultimo brano è stupendo, di Mimmo Locasciulli, e il titolo è Cara Lucia. Buonanotte a tutti. Cara Lucia, a scriverti un problema, ho 100.000 parole e non me ne viene nessuna. Io so guardarti negli occhi senza dirti niente, tu sai capire le cose così velocemente. Cara Lucia, quanto tempo è passato, siamo rimasti indietro e il resto se n'è andato. Tutte le grandi cose che dovevamo fare, che abbiamo messo in tasca e poi dimenticato. Cara Lucia, che cosa ci vuoi fare se siamo cani di strada, nuvole in mezzo al mare, luci da lontano, spine nella mano, treni che una notte non si incroceranno più. Cara Lucia, va bene e non mi serve niente, io vivo giorno per giorno nascosto tra la gente, o come una vedetta in cima alla collina, e vado a letto tardi, è quasi già mattina. Cara Lucia, vedessi la gente che ho incontrato, e quanta ne ho dentro al cuore, e quanta ne ho dimenticato. E quante parole al vento, e quanta malinconia, e quante volte ho preso tutto e me ne sono andato via.